Voglio sapere i motivi per i quali sì. è finita quella deliziosa trasmissione. Lo so, deliziosa, è fatto bene. Adesso poi te li racconteremo in privato, perché non è che possiamo mettere in pubblico tutto. No, non volevo in pubblico, voglio sapere se... Se riprendiamo, dici? Sì, magari sarebbe. Eh beh, certo. Io mi ero illuso, dico adesso ho fatto la trasmissione con questi due, va avanti 10 anni, durata mezz'ora. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma lo sai che mi sono veramente scocciato con questa storia del colpo di Stato, David? Oh. Cioè, è veramente una scocciatura. Va bene la propaganda che uno dice, sono tutti ladri, ci vogliono fottere, la Banca d'Italia, i privati, che poi non è vero, eccetera, eccetera. Va bene tutto, che si stanno avvicinando le elezioni europee, che bisogna serrare i ranghi, però è in atto un colpo di Stato in Italia. Ma quale colpo di Stato? C'è gente che più o meno cerca di campare, di tirare avanti, chi meglio, chi peggio, ovviamente. Ma di quale colpo di Stato parliamo, Grillo, amici grillini, popolo della zanzara, popolo della radio? Che vi pare che ci sia un colpo di Stato? Vi pare che ci siano i soldati di Pinochetto, come diavolo si dice? Vi pare che ci siano i militari per strada? Vi pare che ci sia un colpo di Stato sotterraneo? E però, curiosamente, di colpo di Stato parlano due personaggi. Due. Uno è Grillo, oggi. D'accordo. Ma l'aveva già detto. Non è neanche l'aveva già detto. Aspetta, aspetta. Ha trovato in... Io devo vedere questa gente che va in televisione nel talk show con questi sorrisetti. Questi qui che hanno fatto un colpo di Stato, bisogna dirlo, che c'è stato un colpo di Stato, che in una notte ha fatto una cosa che non era inimmaginabile in un paese normale. Tutti a memoria e la solita non cambia la menata. Ma l'altro è Berlusconi, perché anche lui parla addirittura di 4 colpi di Stato. 4, il Berlusca. Ale! Certamente non si sono visti nelle strade in 4 occasioni di questi 20 anni militari, carri armati, gente in rivolta, ma egualmente ci sono stati 4 colpi di Stato. Poi di aver paura, l'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri legati e letti mai. Oh, Sgarbi su Grillo, in realtà è una cosa che ha sempre detto, è un assassino pregiudicato che manda i picciotti in Parlamento. Credo si riferisca a Grillo, no? Si riferisce a Grillo, eh? Beh, sì. L'ha detto 1000 volte qui da noi lo Sgarbone, Colpo prenderte. E chiama assassino pregiudicato, è come un boss mafioso che manda i suoi picciotti in Parlamento a difendere i diritti dell'assassino che gli ha mandato in Parlamento. Ora, a me dispiace perché Grillo non mi è neanche antipatico, ma che sia tecnicamente un assassino e un pregiudicato è la prova che tutto quello che dicono contro Berlusconi se lo dicono a se stessi. Ha detto un assassino, ha fatto un incidente con è evidente, è evidente. Cornuti, è chiaro, no? Quello un coglione, uno stronzo, è imbecille, adesso mi vado a candidare a Piazza Armerina, quello un cretino, a Forlì, sono andato a Forlì a l'altro giorno. E Pasolini! E il copione ormai lo sanno tutti a memoria. I grillini abusivi, poi, l'altro must sì, di Sgarbi. Ma abusivi giusto, in teoria come giusto. Tutti. Cioè, tutti sono stati candidati con le liste bloccate, dal primo all'ultimo. Però anche i grillini, sì, dai. Anche i grillini va ricordato. Sì, loro dicono sempre, no? La legge Porcellum, eccetera, eccetera. Però poi hanno fatto le parlamentari con 4 click su web, dai, su. La televisione. Ci sono dei signori che sono entrati in Parlamento con 106 deputati, hanno preso 9 milioni di voti e oggi no, sondaggi danno al 24%, quindi sono un pezzo. No, solo l'assassino è entrato in Parlamento. L'assassino, pregiudicato e assassino Grillo, ha preso tutti i voti, gli altri sono degli abusivi, entrati in Parlamento come gli altri peraltro, ma senza neppure le primarie. Se questa è la dinamica, sono abusivi tutti. Rocco Casalino, ex Grande Fratello, ex grande fratello fustigatore della Bignardi, perché gli ha detto: "Bah, insomma, lo sai che c'hai il suocero assassino, sì", riferendosi a Sofri. In due interviste dice: "Sono stato violento, ma c'è da lottare, io lotto". Di Battista ha sofferto molto per quelle quattro domande sul padre fascista, ha sofferto molto, ma non mi sembrava che soffrisse quando era lì dalla Bignardi. Poi ha detto che c'è stato il grande complotto, ho visto il marito della Bignardi, cioè Luca Sofri, che gli suggeriva le cose da chiedere, una trappola. Noi vogliamo ricordare il meglio di Casalino, però, che non sono queste cose, non è quando lui si è messo a fare il portavoce dei grillini movimentista, è il Rocco Casalino del Big Brother, amici miei. Io una volta a Bologna sono andato a vedere la Rizzo, Jessica Rizzo, con la mia ex ragazza giapponese Mieko, no? Lei veniva dal Giappone, noi con lei, lei è stata quella con la quale ho fatto le cose più strane, in biblioteca. In biblioteca. Perché era tutta timida, allora ti ispirava a fare le cose più strane. Era timida, certo, no? Quando uno è timida. In piazza Venezia a Roma, sì, in piena piazza Venezia, piena di gente, io col cappotto, la faccia, mi ha fatto proprio davanti alla sì, cosa, mentre che guardavamo, cioè, se ne è parlato, che le piaceva guardare quei due militari. Ma cosa? Cioè? Pensa a loro, pensa ai due militari come piaceva guardare loro. I due militari, dicevo, pazienza. Perché lei eccitava questo fatto che loro erano, e voleva che loro ci guardavano, e io mi mettevo in una posizione tale che lei guardasse loro e che lei praticamente nel godimento sperava che loro la guardavano, certo. No, la timidezza fa queste scherze. Forse sperava anche che lo sostituissero. Allora, oggi è uscito uno scritto di Messora, che è il coordinatore della comunicazione dei 5 Stelle al Senato, il capo della comunicazione dei 5 Stelle al Senato, una roba del 2010, quando lui faceva praticamente il porco, diciamolo, con le ministre del PDL. Mi trovavo disteso sul letto e pensavo a Mara, Stefani e Maria Stella, che sono Mara Carfagna, Stefania Prestigiacomo e Maria Stella Gelmini. L'associazione di Mara alla fellazio è stata automatica, cioè ha associato la Carfagna ai pompini. Per Maria Stella invece c'è la sodomizzazione, dice Messora. Per la Prestigiacomo, invece, la sua natura imprenditoriale le conferiva una qualità di penetrazione attiva tipica dello stupro. Poi però le è sembrata un po' una mistress, cioè una padrona. Capito? Messora? 2010. Poi uno dice che sono cose del passato, però anche loro ogni tanto... curricula. Sì, ma anche loro ogni tanto vanno lì a bastonare sul passato delle persone. Certo. Soprattutto loro. Ma abbiamo con noi un grande personaggio, tornato trionfalmente nel salotto di Vespa a parlare di cose sue. Beh, c'è stato il plano. Tormina, che c'è? Intanto torna, è stato espulso. No, è stato espulso. Hai detto tornato. Tornato lì con il plastico per la morte, no? Per il processo Meredith. Paolo Crepè, buonasera. Stupendo. Buonasera. Come andiamo? Molto bene. Come si è trovato a tornare ad avere a che fare con il plastico della casa di Meredith? Io non so cosa, non li faccio io i plastici. No, i plastici, ma non mi dica non sopporta i plastici, crepe. Boh, insomma, non li sopporta. Cosa devo dire, che mi eccito con i plastici? No. Può essere, anche questo sarebbe interessante, professore. No. Fosse stato un plastico per la testa di Grillo, per il cervello di Grillo, un bel plastico. Allora, però, fosse per lei i plastici non ci sarebbero, diciamo, no? Non ci dovrebbero essere. Diciamolo tutto. Non so, io sono un ospite. Quindi non lo dica chiaramente. Non sono un autore di Porta a Porta. No, certo, però lo dica, i plastici a lei le fanno un po' schifo. Non mi interessano. Non le interessano i plastici. Non l'affascinano. Né caldo né freddo. Ma no, no, non ho mai giocato neanche con i trenini, cosa vuole che mi interessi. Oh, attenzione come si usano le parole, i trenini qui possiamo capire male. Secondo lei Vespa? Vabbè, ma voi avete... Noi ci abbiamo la fissa, non ci abbiamo il tarlo, ci abbiamo il tarlo. Monomaniacale, secondo lei Vespa è immortale? Non so. No, ma non credo. Secondo me è immortale. Io sono arrivato alla... Anche lui invecchia come invecchiamo noi. Sì. Normale, lei che lo conosce da un sacco di tempo. Ma... No, io non lo conosco. Io beh, lo conosce, lo vede. Io lavoro a Porta a Porta. Non lo conosce. Non l'ho mai che visto fa? Prendere distanze. Da Porta a Porta. No, non l'ho detto da sempre. Senta, ma guardando in faccia Grillo... Perché dovrei prendere le distanze? No, ma sto scherzando. No, nel senso che uno va a lavorare e non è che poi esce col capo, no? No, ma può succedere anche quello, che uno diventa... Sì, diventa... ma no, a me non è successo. Scusi un attimo, ma guardando in faccia Grillo, lei che è un attento analista anche di queste cose qui, di fisionomica. Esatto. Lei a che cosa pensa? Non so. sono l'ombrosiano. No, non è l'ombrosiano, no, però... è vero, non è l'ombrosiano. No. Però... No, mi pare... ma vede, le persone in generale, non parlo di Grillo in particolare. No, parliamo di Grillo. Che utili... Sì, sì, ma poi ognuno applica le cose che ha, come a chi crede. C'è una forma di impotenza che è legata all'urlo. Sì. No, cioè chi più urla, chi più mena, chi più usa violenza, non è, non lo fa per potenza, ma per impotenza. Per impotenza. Beh sì, certo, è ovvio, no? Cioè lo stupratore è un impotente. Sì. Lo stupratore è un impotente. No? Dunque, chi più urla, chi parla di cose. Ma Casanova non aveva bisogno di stuprare nessuno. Ah. Giusto? Dunque, chi più aveva le sue belle bellezze, così usava la dolcezza e la delicatezza che si usa nei confronti delle signore. Per cui, se uno urla come Grillo, se uno usa parole sessiste, diciamo, se uno utilizza il sesso. Ma si vede che non riesce a farsi sentire parlando normalmente. Questo è un difetto, no? Ed è anche un po' impotente, dice lei. No, non dico sessualmente, probabilmente Grillo sarà potentissimo, sto parlando di mentale. Mentale, impotente mentale. Non sto parlando di non beh, sto anche, parlando di testo, anche di quello ogni tanto, no? Anche quello ogni tanto. Ma questo non lo so, non sono un urologo, quindi non... Un attimo solo, capisci che c'è traffico. C'è una differenza tra psicologi. Ma non c'è dubbio. E urologi, sì, quello sì, perché io vengo da una famiglia di urologi, per cui sono abbastanza ferrato su questo. Lei capisce che Sì, per carità. Sono casa sua. Le vesciche sono a casa mia, sì. Per adesso funziona tutto bene però qui, è scemoa. Toccando la sua vescica. La sua funziona bene per adesso, niente. Ottima, guardi, ottimo, ottimo. Traffico. La zanzara che bugge nel vivo. Ma è arrivato anche Mandarà, caro Parenzo, a dire la sua, Il mitologico Salvo Mandarà. Beh, però spiega chi è, professor Crepè, al pubblico, sì, perché non è che tutti sono obbligati a sapere chi è Mandarà. No, assolutamente. Salvo Mandarà è uno che ha un blog molto seguito sul web, è uno che ha il suo canale. È stato quello che faceva le riprese di Grillo durante tutta la campagna elettorale. È quello che saliva sul palco di Grillo a riprendere i comizi. Sì, adesso tutto pare qua. Che si sia un po' staccato, resta comunque un militante del Movimento 5 Stelle. Sentite, amici popolo della radio, sentite cosa ha detto sulla questione della Boldrini e dello stupro. Lei ha letto queste cose tremende, Crepè, che scrivono sulla Boldrini, lo stupro, dopo che Grillo ha messo online quel video, come no? Certo. È a conoscenza di tutto. Senta cosa dice un grande cantore dell'epoca grillina, Salvo Mandarà, su Boldrini e stupro. Quindi veramente volevo chiamare oggi la Boldrini, la presidenza della Camera dei Deputati, e dire, se mai fossi riuscito a parlarci, dire a Boldrini: stai in una botte de fero proprio, con i rinforzi, con le barre al titanio. Cioè, puoi stare tranquilla, da parte mia, anche se ci trovassimo in un'isola deserta per 10 anni di seguito, piuttosto stuprerei un lemure. Ecco, sapete cosa sono i lemuri? Sono quelle scimmiette piccoline tipiche che si trovano solamente in Madagascar. Sono degli animaletti stupendi. Parenzo, attacca avanti, Parenzo, so che hai voglia di attaccare, Parenzo, dai. No, so ma voglio prima chiedere una cosa a Crepè, perché tutte queste metafore sessuali del mondo grillino, a partire dal signor Grillo, non mostra una forma, una psicopatologia davvero che andrebbe inquadrata da un punto di vista clinico, no? Queste continue metafore sessuali e i grillini che parlano di fellazio e Grillo che addirittura evoca metafore sessuali. Ma Crepè, professore... Mi ricordano molto una cosa che si studiavano ai miei tempi, che erano le istituzioni totali, cioè quei luoghi, possono essere i conventi, le caserme, i manicomi, le prigioni, dove non essendoci libertà, la comunicazione tra gli ospiti, diciamo, delle istituzioni diventa esacerbata e è piena di fantasie, di cose che non possono fare, perché in galera non si può pensare di andare a fare l'amore. Sì. No, cioè, lei, malattia è. Lei dice che come stare... Sono, sì, mi sembrano delle persone costrette, non libere. E dunque parlano di pompini? Ma non lo so, parlano di cose. No, non è la questione della... No, è questa l'idea che il sesso debba essere violento. Sì. Che non si possa parlare di fare l'amore perché sembra ormai che parli un vescovo della CEI. Sì. No? Bisogna, per parlare di sesso, bisogna usare lo stupro. Che è una, questo sì che è inquietante, naturalmente, per chi usa queste... Senta, ma i grillini quando parlano, i deputati o senatori grillini quando parlano, cosa... Evidentemente non sono liberi. Ma sono, cosa la fanno pensare? Dentro dei pezzi di conventi, immagino, io mi sono fatto questa idea, no? Sì. Dove non c'è vita, c'è solo costrizione. Beh, d'altra parte, l'accenno che mi pare che abbiate fatto anche voi, alla programmazione linguistica. Sì, insomma, ieri. Beh, insomma. Senta, Crepè, davvero, siamo davvero molto, molto vicini alle 7. Alle 7, alle 7. Lei la definisce una 7. Uno, guardi, la programmazione linguistica la si fa a chi non c'ha la lingua. Ah. Giusto? E quindi a chi non c'ha la testa. Giusto? Sì. Scusi un attimo. Uno che ha delle idee ha bisogno di una programmazione. Non è che mi viene Casaleggio e mi dice cosa devo pensare. Ecco, Casaleggio. Normalmente io avrei dei pensieri. Senta, ma se guarda. Però sono miei. Sì, sa sì. Com'è? Sono originali. Sono miei. Quando lei ho bisogno di un suggeritore. Sì, quando lei guarda o sente Casaleggio, cosa pensa? No, io, orrore. Mi viene in mente un istituto psicanalitico che aveva messo su Göring. Che si chiama Göring Institute, che stava a Berlino, ovviamente, che faceva il lavaggio del cervello, poverini, a quelli agli aviatori della Luftwaffe. Ecco, siamo a quel livello lì, cioè, siccome poveracci, è meglio che non pensare quando uno va a bombardare, no? È meglio che non pensino affatto. E allora c'era bisogno di qualcuno che con delle lavatrici lavava quei cervelli e li annientava. E Grillo è il suo braccio destro, il suo esecutore? Non lo so, non ho mai sentito dire qualcosa di contrario a tutto questo. Se non è d'accordo basta dirlo, no? A me fa terrore, ma fa terrore qualsiasi cosa che sia coercitiva. L'idea che uno venga a dirmi cosa devo dire è una cosa che mi fa... Sui, se prendesse, io sono nato democratico, mi dispiace. Ma se Grillo vincesse le elezioni per l'Italia... Tre generazioni di antifascisti. Scusi, Crepè, se l'Italia, se Grillo vincesse le elezioni, che farebbe lei? Niente, cosa vuole che faccia? Mica mi toglieranno la casa, no? No, tolgono, intanto chiudono porta a porta, secondo me. Ma chiudono porta a porta, io ci vado 3-4 volte l'anno. Le assicuro che per quello che mi dà, ci vado anche in motorino per non far pagare la Rai. Addirittura? Ma quanto le danno? Sì, sempre andato col motorino, mi dà fastidio le macchine blu. Ma quanto la pagano a porta a porta? Poco? 7,50 lorde. 7,50 lorde? Lorde? Sì, sì. Ma basta, è online. Ma è una cosa... Lorde non nel senso però, di... Scusi, Crepè, ma è una cosa una cosa da fame. Un professore quasi. Come lei? Cioè, domandi a Viale... Ma non è mancia, è una mancia praticamente. Dove fanno i contratti a Viale Mazzini. Ma non è da fame, secondo lei, una cosa del genere? È una mancia. Ma io vivo d'altro. No, ma quello è chiaro, quello è chiaro. Però pure lei si rende conto, no? Che mi sembra, no? O no? Sì, anzi ce l'hanno anche abbassato. Pure? Erano 800, sì sì. Ma mi sembra anche abbastanza... Sì, perché sa che alla Rai fanno cioè la spending review, no? E perché ce l'ha tre volte il costo di uno dei suoi maglioncini? Sì. E poi però dei professionisti dicono lei ha anche pagato al massimo, così mi dicono. Ma come? Ma 750? Vado a vedere se una starlet prende qualcosa di più, immagino di sì. Perché sai, questo è un paese dove se hai la quinta di reggiseno guadagni molto, se sei laureato ad Harvard... Ma guarda, professore, ma 750 lordi, ma è una cosa assurda. Lordi. A fare una battaglia sotto la Rai per Crepè. No, ma sì, guardi, va benissimo così. Noi siamo pronti a incatenarci con il signor Cruciani davanti al cavallo di Galla Mazzini. La ringrazio per il pensiero. Crepè. Si incateni per ben altre. No, mi incateno per alzare l'emolumento del signor Crepè. Io e Cruciani alla coda. Cruciani lì nei testicoli. Ma guardi, va benissimo. Sono io per primo che dico va bene così, perché il paese ha bisogno di mettere risorse da altre parti. Ho capito, però la Rai spreca un sacco di soldi. Ma va benissimo. E quanto costa uno dei suoi maglioncini, praticamente? È il costo di un maglioncino di cash? No, anche quelli non me li hanno mai regalati. Appunto, ma quanto costa un maglioncino? Le cose che mi sono chiesto, come mai Cucinelli, che conosco, ma quanto costa un maglioncino suo? Quanto costa? Ma no, sono di cashmere, sono stupendi, sono una roba. Un migliaio, sono dai. Quelli col pelo di topo, no, perché ho visto che hanno fatto anche peli di topo. Professore, di topo, a presto. Arrivederci, state bene, ciao. Attento al DDT, sai. GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. È bravo questo ascoltatore, è intelligente questo ascoltatore. Ma meno male che c'è la pubblicità, però. È molto intelligente questo ascoltatore. Sull'erba butto spesso il fisico. Forza Italia contro la Boldrini, Santanchè, i grillini hanno passione e fanno opposizione. Ma a me tutta questa roba, tutti questi fiumi di parole, cosa fa Grillo, cosa fanno i grillini, come si comportano? Si comportano da chi ha passione, da chi ci crede in quello che sta facendo e da chi fa opposizione. Boldrini inadeguata, sempre la pitonessa, eh? A me dispiace per la presidente Boldrini, però vedere anche da parlamentare la gestione della presidenza che gestisce la Camera in un modo che io trovo assolutamente inadeguato, perché certe volte mi sembra di essere su Marte quando vedo la presidente Boldrini. Sostanzialmente brutta è quello che ha detto il nostro amico Salvo Mandarà al presidente Boldrini. Io voglio fare risentire questa cosa, perché di fronte alle parole della Boldrini ci sono potenziali stupratori nel blog di Grillo. Beh, Mandarà ha risposto in questo modo, diciamo ricalcando, se vogliamo, quello che ha scritto, pentendosi poi, l'amico Messora, no? 5 Stelle Senato. Esatto. Quindi veramente volevo chiamare oggi la Boldrini, la presidenza della Camera dei Deputati, e dire, se mai fossi riuscito a parlarci, dire a Boldrini: stai in una botte de fero proprio, con i rinforzi, con le barre al titanio, cioè puoi stare tranquilla da parte mia, anche se ci trovassimo in un'isola deserta per 10 anni di seguito, piuttosto stuprerei un lemure. Ecco, sapete cosa sono i lemuri? Sono quelle scimmiette piccoline, tipiche, che si trovano solamente in Madagascar. Sono degli animaletti stupendi. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Napolitano al Parlamento europeo, l'austerità ad ogni costo non regge più, serve una svolta contro la deriva anti-euro, i leghisti protestano, tutta l'aula lo applaude. Letta dal Kuwait annuncia investimenti per 500 milioni, serviranno a rilanciare le imprese, la risposta migliore, dice, contro il disfattismo. La relazione dei questori sulla bagarre in aula dei 5 Stelle, volevano bloccare tutto, Grillo sul blog, in atto un colpo di Stato, la Boldrini si dimetta. Via libera di Bruxelles all'alleanza l'Italia Etihad, non ci sono aiuti di Stato, da Lufthansa protesta senza fondamento, cosa cambia per la compagnia italiana? Centinaia di sfollati in Veneto in attesa della piena del Bacchiglione. Già allagati diversi comuni, tre anni dopo torna l'incubo alluvione. E caccia l'ergastolano evaso dopo l'assalto armato al furgone che lo trasportava. Ricerca in tutta Italia, trovata l'auto usata per la fuga. Massacra la fidanzata di 19 anni a calci e pugni per gelosia. Ora la giovane in coma, arrestato l'aggressore di 35 anni. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Modestamente sono indicato come presidente del governo provvisorio della Padania, un documento ufficiale del Parlamento europeo, e poi recandosi lontano dalle sue terre di mafia, venendo al nord, può leggere sui cartelli stradali strada statale Padana superiore o strada statale Padana inferiore. Non l'ha inventata Bossi, è la terra civile di noi padani. Sali Padania. Grande show al Parlamento europeo oggi di alcuni leghisti, tra cui Marione Borghezio. Una gazzarra, un'indegna gazzarra, no? Ma quale indegna gazzarra? Un'indegna gazzarra, ma ne parleremo dopo, perché spero. Spero si potrà dire qualcosa di questa gazzarra divertente da raccontare per noi della Radio 24, diciamo, no? Delle 18.30 alle 21. Ma no. Però va il capo dello Stato, amico mio, a Strasburgo, sede del già costosa sede del Parlamento costosissima europeo, sede, già sì. Seconda costosissima sede del Parlamento europeo, e gli amici della Lega, profumatamente pagati, inscenano con il nostro capo dello Stato lì un'autorevole gazzarra. Beh, cari amici, è il momento di dire basta. Ma perché? Basta. Non ho capito. Non si può. Basta. Basta. Basta. Ma non basta. Si può contestare Napolitano. Non ho capito. Ma tu ti rendi conto della stupidaggine? Il tuo presidente della Repubblica con la presidenza del dicono tuo paese. Basta euro. Basta vanno euro. Lì, hanno fatto una gara. Si mettono le bende verdi. I cartelli come fosse il circo Barnum. Che lì a Strasburgo sono tutti educatissimi. Al nord ogni volta dice scusa, posso parlare in spagnolo? Is possible, please? Ma non è la prima volta di Borghezio. Senti qualcosa di Borghezio del passato al Parlamento europeo. Senti questa roba stupenda. Sentiamo questa carrellata. Sentiamo. Servi di Roma fuori. Scusate, queste manifestazioni, voi che siete così coraggiosi, andate a fare incatenandovi a Pechino, a Cuba, a Teheran, dove si muore per la libertà di stampa. Vergognatevi, conigli, andate a Teheran, andate a Teheran, conigli. Onorevole Borghezio, concluda. Ancora Borghezione, conigli. No, ma vedi, educatissimo. No, concluda. Quella era la, credo, una sì, del PDL italiana, un altro Borghezio, senti. Vorrei indicare una speranza, che alla prossima riunione ci sia almeno uno dei parlamentari buonisti che parlano fuori di Rom, che ci venga a dare notizia di aver accolto a casa sua, con lo stipendio di europarlamentare può farlo, un bel nucleo familiare Rom, aggiungendo un posto a tavolo. Non è difficile, basterebbe dimostrare nei fatti e non solo con le parole di essere buonisti. Non permettere altri. Accogli un rom a casa tua, Parenzo, dato che è una casa così ampia. Accogli una famiglia rom di quelle che hanno. Ma no, di è quelle. Uno strumento, no, aspetta, veramente è un argomento, aspetta, di una idiozia. No, aspetta, rana. Io voglio dirti una cosa. Siccome è proprio un argomento hanno, idiota. Siccome le inondazioni di Roma hanno messo. Ma uno dovrebbe dire a loro. Ma che stai che tranquillo. Siccome le inondazioni di Roma hanno portato. Hanno distrutto dei campi rom. I rom sono stati messi in albergo. Paghiamo noi, Beh, questo è giusto. Negli alberghi di Roma. Quale è giusto? Ma quale è giusto? Ma stavano per strada prima, stanno per strada anche adesso. C'è stato il terremoto, aspetta, in Abruzzo, aspetta, e gli abruzzesi li hanno messi. Perché in non ti sei proposto? Perché non hai portato qualche famiglia rom a casa? Perché non ti sei portato qualche famiglia rom a casa? Perché non ti sei proposto per portare qualche nucleo familiare rom nella lussuosa casa di Prati? Ma perché sei? Come ma mai? Ma perché devi dire come stupidaggi? Mai? Devi dire? Ma è un argomento da usare questo, forse? È un argomento? Roberto da Ravenna. Sammi sentire Roberto da Ravenna, dai. Ciao amici. Ciao caro, dimmi. Roberto, ciao. Volevo invitarvi a fare una bella macchinata e visitare un bravo psicologo insieme al dottor Crepè. Perché? Perché questa è stata veramente comica, che chiami Crepè per analizzare la faccia di Grillo, com'è? Vabbè, perché Crepè non può avere la sua idea su Grillo, non ho capito, che è interdetto, che c'ha? No, non ha niente, però allora? Sarebbe anche interessante chiedersi perché la Boldrini ha tutta questa paura dello stupro, perché ha tutta paura di e perché, secondo scoprire te? Che c'è una relazione che può essere normale con un uomo, no? Cioè, l'altra volta è uscito fuori con la storia delle donne nella pubblicità, che sono sempre... E allora lei ha sempre questo atteggiamento verso il mondo maschile che è di paura, che non si capisce bene. Ah, paura, secondo te il problema è della Boldrini, non è di chi scrive che vuole stuprare la Boldrini. Mamma, scusami, mia, che, eh. Che schifo. No, la Boldrini, a dire il vero, la Boldrini, nessuno ha detto che voleva stuprare ma la come Boldrini. No, ma leggi i messaggi che sono arrivati, li ho letti ieri, leggi i messaggi che sono arrivati là in quel... Io non voglio dire che sono dei grillini quelli là, sono semplicemente dei frequentatori di quel blog, punto e basta. Certo. E certamente i grillini non sono potenziali stupratori e certamente non c'è la versione. Su questo dissento profondamente dal presidente della Camera. Però c'è gente che scrive voglio stuprare la Boldrini, quelli sono degli imbecilli, dei deficienti, o no? Non è che Berlusconi rispondeva a tutta Italia quando lo insultavano. Cioè, il presidente della Camera non è che può rispondere a tutti. Ma questo, su questo hai ragione, perché non deve precipitarsi da Fazio per parlare di quattro cialtroni su web che le danno della puttana. Un attimo solo, fermo. Detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Zazà, zazà, zazà, zazà, zazà. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara... Pare che vogliano mettere, non è confermato, altre tasse sui tablet, sui telefonini, eccetera, eccetera. Ma quando è che cominciano a tassare, che ne so, le trombate? Cioè, eccolo qui, qua. Tu correresti, diciamo, no, mi aspetto di tu tutto. Diventeresti il primo contribuente italiano, in quel no, caso. No, ma mi aspetto di tutto. Mi aspetto di tutto italiano. Ormai. Di tutto. Restare al buio a me non piace e c'è un rumore che non mi dà. Chi c'era? Roberto Dall'Avenna sempre. Roberto, dai, forza. No. Allora? No. Allora è questo. Quello che volevo dire è questo. Non è che il presidente della Camera deve sapere che chi scrive a casa e tante volte c'è lo studente che non trova lavoro, che ha quattro master, e me, ma che c'è? È incassato duro e non è che può rispondere a tutti lei. Tutto qua. Io mi chiedo solamente una cosa: se i grillini non avessero fatto tutto questo casino, questo provvedimento sarebbe passato così senza... È passato lo stesso, non si preoccupi, guardi, nonostante almeno, questo casino è passato uguale. Almeno sappiamo chi c'è dall'altra parte, no? Sì, ma questa storia delle banche, della Banca d'Italia, che è una vicenda complessa, viene semplificata dai grillini come il regalo alle banche. In parte è così, in parte no, ma non è che non si sapeva prima. Fratelli d'Italia stavano facendo un'opposizione abbastanza certo. corretta, forte in Parlamento, senza bisogno di arrampicarsi sui banchi del governo certo. o di dare delle pompinare a quelle del Partito Democratico. Carlo Dall'Aquila. Buonasera. No, volevo semplicemente intervenire su una vostra affermazione a proposito del cachet che prende lo psichiatra sì, Crepè. Non sono d'accordo con voi, detto qui. Ma su che cosa, scusi? Ah, sul fatto... 750 euro lordi nette che prende, secondo me, io pensavo che ci andasse gratis, pensi un po', quindi tutto qui, volevo dire... Cioè, secondo lei ci dovrebbe andare gratis? Ma certamente, per sentire... Ma è un professionista che va lì da Vespa a parlare, un professore, uno dei simboli di Porta a Porta, e abbiamo detto, professore, lei mi sa che prende poco 750 euro lordi, risentiamo Crepè, risentiamo il mitologico Crepè. Quanto la pagano a Porta a Porta, poco? 750 lorde. 750 lorde? Lorde? Sì, sì. Sì, anzi, ce l'hanno anche abbassato. Pure? Erano 800, sì, sì. Sa che alla RAI fanno cioè la spending review, no? Poi pagano qualcuno 4 milioni e poi però a dei professionisti dicono lei ha anche pagato al massimo, così mi dicono, non lo so, io non è che vado a vedere se una starlet prende qualcosa di più, immagino di sì. Un po' si lamenta, devo dire, Poi... No, fa notare, lui dice, io sono un professionista, sono uno psichiatra. Lo invitano perché evidentemente funziona e fa ascolti, no? Allora dice, perché devo valere meno delle gambe di una starlet? 750 lordi, alcuni mi dicono, no, è una vergogna, è già tanto, perché secondo te dovrebbe prendere di più? E ho capito, ma quello è il professor Crepè. Antonio da Siracusa. Buonasera Cruciani. Dimmi, dimmi. Buonasera. No, niente, in questi come giorni niente. Proprio. No, appunto, andiamo al punto. In questi giorni avete proprio da parlare. Questi ragazzi non si sa se sono grillini o sono dei militanti di 5 Stelle, insomma. Ma quali? Quelli che insultano la Boldrini. Ah, quelli dentro il blog di Grillo, sì. Allora... Sì, no, però a questi signori volevi dire che forse ne valeva la pena 16-17 anni fa, quando la vedevo a Via Nizza, che lei frequentava il gruppo là vicino a Bertinotti, con quello che ha fatto Partito dei Comunisti Italiani. Ma in che senso valeva la pena 16-17 anni fa? Ma perché era molto più carina, scusa, Cruciale. Ma lei è una bestia, ma lei è un animale. Sì, ma non lo condivido comunque quello che hanno scritto. Ma ho capito, non lo condivide, però dice anche non è conveniente stuprarla adesso, era meglio nel 97. Ma dico, ma non si vergogna? Ma perché mi devo vergognare? All'epoca io la vedevo tutte le mattine, dicevo che bella sta ragazza. Poi scoprì che era di sinistra estrema e non mi piaceva più. Ah, lei è un potenziale violento, ma un perché? Manico, violento. Ma perché no, io non uccido neanche una mosca, non ho violentato mai. Però intanto la battuta sessista è violenta. Ma la battuta è perché non ne vale la pena, voglio dire. Il fumo non ne vale la cantera. Poi, a parte che è la presidente della Camera e quindi... Cioè, ma ti rendi conto il livello di barbarie però, Cruciani? Ti rendi conto o no? Adesso non è il solito moralismo. Ma questo c'è il nome, c'è un nome. C'è il livello di barbarie per cui si fa la battuta sullo stupro ormai. Cioè, scherzare. Era meglio 17 anni fa, come era carina, con la minigonna, ne valeva la pena. È una barbarie pura. Fermi ormai. Tutti, fermi tutti. Alziamo un po' il livello. Cosa è successo oggi al Parlamento Europeo? Una gazzarra è successa. Ma quale gazzarra? No, non niente. Si può nemmeno contestare Napolitano, ma falla finita. Una gazzarra, come la chiami? Marione? Eccoci qua, sempre eccolo. Al dovere, vici al dovere. Come andiamo? I vici ci sono sempre quando c'è da combattere. Cosa è successo oggi al Parlamento Europeo? Ti sei sbracciato, hai messo un cartello, hai impedito a Napolitano di parlare. L'abbiamo interrotto con molta educazione. Beh, dicendo con voce che, tale che si sentisse anche diciamo così al fondo del Parlamento che noi lo rispettiamo, che però è venuto a parlarci dell'euro, a parlare di tutte queste prospettive. Beh, però ha detto no all'austerità. E prospettive entusiasmanti di questo euro e di questa Europa che a noi fa schifo. Perché con questo euro, queste puttanate, il patto di stabilità, vincoli da tutte le parti, austerità per tutti, ma non certo per i commissari europei, per i burocrati che trovano sempre occasione di aumentarsi lo stipendio. Sì. Insomma, sacrifici per noi, per i contribuenti. Ma cosa gli hai detto esattamente a Napolitano? Scusami, le parole. Noi gli abbiamo detto basta con questa Europa delle banche, basta con questa. È una dittatura questa Europa qua, non ci venga a parlare di loro. Si ricordi che lui parlava di Cattaneo, parlava dovrebbe essere fedele alla carta di Chivasso, ai valori. Però diciamo, scusami Mario, ma se tu ce l'avessi faccia a faccia, no? Di fronte, proprio face to face, Napolitano, cioè cheek to cheek. Cosa gli diresti esattamente? Beh, gli darei le stesse cose che gli ho detto stamattina, che devo dire in coro con gli altri. Gli daresti del comunista, del vecchio comunista glielo daresti subito. Ma diciamo. Guardi, la cosa fondamentale è che lui difende questa Europa, cioè questi continuano ha velato un po' di critiche perché evidentemente non è ma il nostro capo dello Stato Borghezio che figura benissimo abbiamo... che il paese non sopporta più questo regime. Però scusa Borghezio, è il nostro capo dello Stato critica, ma qui non bisogna fare una critica, bisogna venire in Europa a battere i pugni sul tavolo e mandarli tutti a quel paese, dire il nostro paese non può subire i ricatti di questa però Europa, scusa di perché parli di paese quando tu in realtà non lo senti come un paese tuo, perché parli di Italia? Ma questo è un paese. Ma guardi che lui tra l'altro ha avuto anche, poverino, io non ho calcato la mano perché ha avuto per anche carità. La fortuna di arrivare a un momento in cui l'Europa dice che l'Italia fa schifo, che è il tempio della corruzione eccetera, quindi con dei dati falsi, diciamo, con dei dati falsi. Io non ho voluto sparare sul morto vivente, non perché ho è un morto vivente secondo te Napolitano? Ma guardi, uno a parte diciamo che l'espressione non era di uno soddisfattissimo, un allegrissimo, no. e voglio dire uno morto che arriva vivente, nel momento in cui l'Europa dice che l'Italia è il campione mondiale della corruzione, voglio dire, nonostante gli squilli di tromba e lo sventolio della bandiera, cioè ti è sembrato Napolitano, ti è sembrato un morto vivente? Ma poverino aveva un'aria sofferente. Io ho un grande rispetto sul piano umano, però sul piano, voglio dire, dei valori, dei disvalori europei che difende e che è venuto a rappresentare, massima opposizione. Ma lo senti? Alzo zero. Alzo zero. Questa è un'Europa che fotte le nostre piccole imprese. Scusami, Mario, Mario. Ha procurato solo disoccupazione, sofferenza. Vabbè, però non facciamo immigrazione a gogo. Ecco, insomma, ne abbiamo i coglioni pieni, detto qui con molta delicatezza. Con grandissima delicatezza. Scusami, Mario, ma a parte i coglioni pieni, il morto vivente di Napolitano, no? Ma la questione fondamentale, tu lo senti come il tuo presidente? No, ovviamente. Cioè, questa ci è stata attribuita, noi non abbiamo detto una sola parola. Ma tu poco nello studio abbiamo attaccato la posizione politica. Ho capito, ma tu la foto di Napolitano, l'espressione morto vivente non è l'insulto alla persona. Beh, che no? Io rispetto il Presidente della Repubblica, voglio dire che questa situazione vivente. Era umiliato pure lui, viene a rappresentare un paese che viene descritto come il centro della corruzione. Scusami un attimo, io non avrei voluto essere nei suoi panni. Mi ha fatto pena. Ti ha fatto pena. Ti ha fatto pena. Ma scusa, è una persona verso la quale sento una grande solidarietà umana. Addirittura. Certo, ma scusa, non avrei voluto essere nei suoi panni. Ma tu la foto di Napolitano la appenderesti mai dietro il tuo ufficio? No. Ma guardi, io a dire la verità nel mio ufficio a Bruxelles c'è solo quella di Monsignor Lefebvre, perché io sono un Monsignor Lefebvre. Beh, moderato Lefebvre. C'è solo quella. Monsignor Lefebvre. Ma ti rendi conto, Lefebvre? Figassero, oddio. C'è di meglio nella vita, però, cioè la useresti per le freccette praticamente, come si usa la useresti per le freccette non la userei per le freccette, io userei per le freccette voglio dire i simboli di questa Europa. Meglio la Minetti, meglio la foto della Minetti. Noi in Padania questa Europa ci sta sui coglioni, parliamoci chiaro. Questo è chiaro. Eccolo qua. Se viene a difenderla è ovvio che noi contestiamo. Scusa un attimo, ma che figura abbiamo fatto gli unici italiani, quelli della sinistra. Gli dicono, quando vanno in mezzo alla gente, parlano contro l'Europa dei banchieri e poi qui sono stati zitti. Ma ti sembra normale, scusa, di questa Europa è stato zitti perché sono dei... Ma scusa, ma Borghezio, ma se arriva il presidente francese al Parlamento europeo, sarebbe assurdo vedere i deputati francesi che lo contestano, scusa, sarebbe una fatto fare una figuraccia? Ma non viene a dire, se viene a dire certe cose può darsi che, voglio dire, anche quelli del Front National sono ancora pochi, ma guardi, ma dia tempo alle nuove elezioni europee che saranno almeno 20 loro e saremo 100 noi eurocritici. Vabbè. E beh, lì li facciamo ballare. Senti, tutti. Mario, vogliamo fare... Appuntamento a dopo le elezioni europee, facciamo ballare tutti. Vogliamo dire due paroline sulla Boldrini? Ma lì lei mi invita a nozze, perché questa vedova nera, voglio dire, dà un'immagine, dice che noi abbiamo disturbato l'immagine d'Italia, ma questa qui tutte le volte che compare c'è da toccarsi con loro, perché è proprio un'immagine, voglio dire, funebre. Addirittura. Questa quando compare sembra sempre che gli sia morto, che abbia il morto in casa. Ma come si fa? Ma dove l'hanno trovata? Questa è bella. Ma l'hanno insultata. Si occupava dei derelitti, naturalmente, vivendo negli alberghi a 5 stelle. E sappiamo come funzionano queste organizzazioni dell'ONU, no? 80% dei fondi per pagare gli super stipendi e il mantenimento dei funzionari. Però, scusa, Mario, e un 20% di quel che resta teoricamente. Mario, ma l'hanno insultata con violenza su internet, vabbè. No, se ci sono degli insulti alla donna, ovviamente, alla persona della donna, ovviamente. Però... Non sono da qualcuno dice che la vuole stuprare, qualcuno dice che la vuole stuprare. Però la sua reazione, cioè, la butta sempre su quel settore lì, cioè sembra sempre che tema che qualcuno le salti addosso. Esatto. Fino adesso, grazie a Dio, non è mai avvenuto, io penso che non avverrà mai, ci sarà anche il motivo. Voglio dire, in che senso, non è certo questo il modo di attaccarla. Ma perché la butta sempre su questo? Non ho capito, perché la butta sempre sul fatto che le saltano addosso? Ma no, lo so, questo bisogna chiedere a lei. Lei continua sempre a parlare di sessismo, di minacce, di che si sente minacciata, che vogliono violentarla. Qualcuno la vuole stuprare? Beh, qualcuno lo scrive. No, vabbè, ma non è mica da prendere sul serio un discorso di questo genere. Un presidente della Camera mica si mette a parlare, a dire mi vogliono stuprare, cioè, tra parentesi, voglio dire, è più che ben, giustamente, doverosamente, più che ben tutelata. Il problema è questo, che si è esagerato a condannare, voglio dire, quello che è stato una protesta che di fronte al modo con cui ha gestito con la ghigliottina l'ennesimo decreto schifosissimo, un po' di reazione era sacrosanta. Ci fossi stato io e stia tranquillo che arrivavo fino al seggio della Madama. Arrivavi fino a là. No, per dirle, lei non è in grado di gestire. Ma tu andresti a cena con la Boldrini? Perché approvare su un decreto che regala i miliardi. No, ma ho capito, ma andresti a cena con la Boldrini o no? Ma io, guardi, tenendo conto di come si trattano i presidenti del Parlamento italiano, che tutti abbiamo visto da Violante poi sempre nei migliori ristoranti, io che sono un buon gustaio, sinceramente lo accetterei volentieri. Ma perché sappiamo benissimo, nessuno ne parla mai, ma i privilegi dei presidenti delle Camere sono esorbitanti, esorbitanti. Quindi sono sempre ben sono sempre ben sistemati. Hanno trovato l'America, questi personaggi qua che prima si occupavano dei poveri e stavano nelle alberghe 5 Stelle, adesso si occupano della democrazia e vivono splendidamente come dei pascià, come dei satrapi. Ecco, questa è la verità. Va bene, ciao Mario, a presto, ciao ciao. Arrivederci, Padania libera, mi raccomandi, basta con l'euro. Siamo qui, Nunzio Firenze, buonasera Nunzio. Eccomi, eccomi, eccomi. Dimmi, allora, dai. Cazzo, figa culo, è il mio contributo per elevare l'audience di Radio Parolaccia. Bravo. Se poi serve un rutto e una scorreggia, mi attrezzo anche per quello. Bravo. E così almeno avete preso tutto. Lei è spiritoso, lei è molto spiritoso. No, non spiritoso, perché lei, come la Nunzio, vostra Nunzio, come fa una a chiamarsi Nunzio? Questo me l'ho dato, pensi al suo di nome. Detto questo, il problema è che lei fa la trasmissione con i miei soldi. Sì. Lei e il signor Parenzi imbecille, non sa nulla. È l'imbecille. Ok, allora se mi lasci parlare, che sono l'imbecille, vado avanti. Prego, prego, imbecille, avete scoppiazzato, ma io lo dico agli italiani, italiani che mi sentite! Italiani! Voi sapete, italiani! Voi sapete quanto guadagna con questa trasmissione il signor Cruciani, il signor Parenzo? Voi sapete che il padrone, l'editore del Sole 24 Ore si pappa più di 10 milioni all'anno di contributo per l'editoria? E non vi venga a dire il signor Cruciani che la trasmissione possiamo cambiare canale, perché è trasmissione pubblica, perché la fa con i nostri soldi. Vabbè, lascialo parlare, ripeto, siamo al delirio, è un delirio. Basta questo che sta dicendo, un tale delirio che va bene uguale, come un rutto una scorreggia. È la verità, perché voi vi mantenete con i nostri soldi. Con questo i suoi soldi. Esatto, però. Poi, aggiungo anche, benissimo, la razza di giornalisti, ma giornalisti di quale testate? Sì. Un direttore di un giornale fa 50, 100.000 copie, 200.000 copie, e se non ci fosse la sovvenzione pubblica, chiuderebbero, e poi voi andate in ve la raccontate tra di voi, caro Nunzio, direttore, signor caro Nunzio, giornalista. Nunzio. Stia zitto perché io parlo con le Da quanto tempo ascolta questa trasmissione? Signor Nunzio. Da quanto ascolta la trasmissione, Nunzio? Lascialo perdere, lascialo sfogare. Attenzione che ci sono. Ha avuto un problema questa sera. I direttori dei giornali, ma cosa rappresentano? 100.000 copie, 200.000 copie. Ma che opinione hanno? Hanno opinione per 100.000 copie. Se non ci fosse la sovvenzione di meno male che c'è Nunzio, sarebbero tutti chiusi. Meno male che Nunzio c'è. Dico, questo in parte radio, è vero, però. A radio, a questa radio Parolacce che ha scoppiazzato da Radio Radicale di altri tempi, molto più degna di rilievo, che vive e campa soltanto con i soldi pubblici. Bravo, bravo, finito il comizio. Esatto, però. Il comizio, ripeto, c'è sempre il mio finito il comizio? Finito il comizio? Avete il mio numero di telefono, Nunzio, se volete il rutto, senta, e la scorreggia, mi viene benissimo. No, no, ma non si preoccupi, è uguale. Alla trasmissione. È uguale, appena è adeguata alla morte. Appena cala dall'apnea, appena esce dall'apnea. Ai vetri, perché lei è protetto come tanti altri. Sono protetto, ma comunque cosa campa lei? Facendo la trasmissione su quali risultati? Sì. Il suo editore la chiama e le dice, bene, sei andato bene perché hai fatto 1 milione di audience, 1 milione e mezzo, con quello campa. Che cazzo di vita è? Allora rutto scorreggia libero, ripeto, rutto scorreggia libero. Questo è il modo migliore per poter gestire la trasmissione. È questo che si deve fare e questo si fa. Punto. Detto questo, buona serata, ma ricordatevi che il mio rutto e la mia scorreggia è a vostra disposizione. Prendo atto che ormai è tutto finito. Abbiamo trasmesso Radio Manicomio. Una parte di trasmissione gestita in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale. Torniamo seri per un po', per poco. Beh, con uno che è stato protagonista e sarà ancora protagonista della grande battaglia sulla legge elettorale. Uno dei pochi rimasti, non dico anti-renziani, però insomma che non sopporta l'uomo solo al comando, si può dire. A me quando trovo qualcuno che non sopporta l'uomo solo al comando, beh, immediatamente mi sta simpatico. Sì. L'ho visto anche in televisione combattere l'onorevole Alfredo Dattorre, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Allora, devi sapere, Parenzo, che Dattorre... Il compagno Dattorre. Si può dire compagno Dattorre? Beh, sì. Ah, per me sì, sicuramente. Ah, sì, compagno, non si può definire compagno, vabbè, Dattorre. Certo, io lo conosco benissimo, per quello ho detto che compagno. Ah, l'ho capito, perché compagno è ancora una cosa attuale. Ma si usa, perché amico dicevano i democristiani, lui dice compagno perché viene da una tradizione in cui si dice compagno. Che cioè, le piace essere... Adesso diciamo amico e compagno, per me va bene anche compagno. Si può definire... non si offende se uno dice compagno, no? Anzi, tutt'altro. E mica è camerata, No, camerata, no, che c'entra. Tu devi sapere che Dattorre, se ho Dattorre... e si è laureato alla Normale di Pisa in filosofia, cioè non è che tutti quelli che sono come in Parlamento Fabio Mussi. Come Fabio sono Mussi. Delle bestie primitive, cosa che ci sta pure, perché io dico sempre che è meglio Razzi di Piano, perché ci vuole anche Razzi in Parlamento, importante. Beh, essere in qualche modo eletti. Razzi è stato eletto, mentre il signor Piano è stato nominato da Napolitano. Questa è una mia teoria un po' bizzarra, dottore. Molto so bizzarra. So che lei non sarà d'accordo con questa cosa, però... comunque la Normale di Pisa, capito? Uno che fa la Normale di Pisa. Anche da D'Alema l'ha fatta, ma non l'ha finita. Fabio Mussi si è laureato alla Normale. Innanzitutto di Pisa. Una cosa in più di Renzi ha. Lei è laureato, mi sembra che Renzi da quella punta. No, lo è anche lui. Ah, pure Renzi. No, ma credo sì. Anche Renzi. Sì. È laureato in giurisprudenza. Renzi. In giurisprudenza, però lei però ha fatto la Normale di Pisa. Sì, ho capito. Di per sé. È un'altra cosa. Filosofia no, ha fatto non lei la Normale. Ma non è che sia un merito politico aver fatto la Normale. No, che c'è. Però è la Normale. In che senso è la Normale? No, se è la Normale di Pisa, dove ha studiato anche Adriano Sofri, insomma, posto vabbè, importante. Ho capito, vabbè, che c'entra essa Adriano Sofri? Alto lignaggio, no? Vabbè, Dattorre, quanto l'è servito fare per la politica fare la Normale di Pisa? Poco? Niente. Ma niente. No, alcuni professori che li ho conosciuto mi hanno trasmesso una scuola di metodo, di provare di metodo. A pensare bene prima di parlare e di scrivere. Non so se nel tempo di oggi, nella politica di oggi, poi mi abbia molto aiutato. Ma certo, quando uno parla dell'Italicum, non credo che là, no, alla Normale di Pisa si poteva escogitare una cosa di questo tipo, no? Come l'Italicum. Io dico una cosa, lei che si è tanto appassionato di questa vicenda qua, si è occupato di questa vicenda della legge elettorale, ma perché in Italia ci dobbiamo inventare sempre delle formule nostre? Cioè prima il Mattarellum, poi il Porcellum e poi l'Italicum, non so se lo chiama Italicum, come lo chiama lei? Ma queste formule le ha inventate, mi pare, Sartori, a partire dal sì, ma perché ci inventiamo sempre queste formule originali? In Europa ci sono tanti modelli già pronti. Noi appunto, no, è quello che mi sono chiesto anch'io. Perché poi, diciamo, uno dei vizi di questo sistema è che ripropone questo meccanismo delle coalizioni e del premio di coalizione che non c'è da nessuna parte. A lei non piace, poi il premio di coalizione le fa schifo. Ma diciamo. Non è che non mi piace, mi pare che in questi 20 anni non ha funzionato, no? Cioè, lei che bilancio dà di questi 20 anni? Beh, quello adesso non lo so, però lei mi dice, ormai però questa roba qua è inevitabile delle coalizioni, almeno su questo lei si arrende, cioè non c'è scampo. Su questo c'è un orientamento, poi voglio dire, Renzi su questo ci ha vinto il congresso, quindi... Per cui qui là non si può cambiare, quella cosa lì non si può cambiare. Lì è complicato. Adesso dopo la pubblicità ci spiega invece cosa si può cambiare di questa roba. La gente che sta in macchina, nei camion, si disinteressa di solito la soglia del 37%, le liste bloccate, forse le liste bloccate un po' di più, pubblicità. Ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Ciao Emilio. Ciao. Ci dobbiamo inventare qualcosa per Emilione, Bisognerebbe, sì. Bisogna mandarlo da qualche parte ogni tanto. Ma di farlo inviato. Bisogna ritrovare lo spirito almeno di Radio Belva, lo spirito. Non vi abbandonerò mai. Vabbè, adesso questa è una minaccia. Questa sembra una minaccia adesso, carino. Mitologico scontro tra Buonanno e Vladimir Luxuria. Buonanno. Sì. No, good as all, Buonanno. Grande frequentatore di talk show. Buonanno. Credo a... com'è che si chiama là dal nostro amico su Rete 4. Da Del Debbio, da professore. Mentre la magistratura a Torino, che è una sete distaccata al TAR del PD e di Rifondazione Comunista e Compagnia Bella, ha guardato la questione di Cotta e si è dimenticata della questione dell'Abresso. Questa è la vergogna, che Piemonte è governato dal governatore Gavito, che voi occupate clandestinamente un posto di Piemonte. Ma Lampedusa, no, vai a fare un po' che te la scabbia. Tiro fuori l'antidoto. Vai a Lampedusa aiutare quelli che devono essere messi a posto con la scabbia. Ah, guardi, preferirei fare quello anziché fare la clandestina alla regione Piemonte e prendere i soldi che prendete. Ma che se va il tempo? Ma che clandestina? Ma che sarebbe un lavoro molto più dignitoso, bravo, capito? Aiutare quei migranti, perché così se tu vai là, perché quella gente che ne ha bisogno, capito? Sanno che sei a Lampedusa, magari non vengono. Che dice, se sanno che ma sei ma tu ridi, ma perché ridi? A me mi fa ridere Buonanno, che ma tu ti rendi conto, ma un almirante ad esempio, che no, che quanto aspetta, che è quanto di più lontano da me culturalmente, tu mai si sarebbe permesso di arrivare a queste bassezze barbariche in un confronto di una quelle tribune politiche? Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Ma stavo difendendo suo marito per la prima volta, scusa. Un attimo, aspetta. Per la prima volta ho detto che neanche almirante sarebbe sceso nelle fogne in quel livello, a quel livello. Non mi toccare, Buonanno, senti contro lussuria ancora. Che abbiamo sentito. Peggio ancora, senti, senti. Allora, vediamo, Simona Malpensi, finocchi tondi. Che non li compro perché non piacciono a nessuno, ma penso sull'1,80. In casa mia non li mangiano, 1,80. Zucchine. Certo, meglio dei broccoli, Buonanno. Meglio dei broccoli. Ma perché, scusa, Meglio ho immaginato che te piacciono i finocchi, scusa, no? Fanno così, ho detto a caso che i finocchi sono capacità digestive. A lei piacciono i finocchi, ma mi ti informano, rendi conto? Ma non c'è più. Mi proprio... informano adesso che è insulto gratuito. Aspetta proprio, un attimo, mi informano che alla Camera Buonanno ha sventolato le manette in aula e le ha portate al ministro Cancellieri. Vabbè. A me invece segnalano un'altra cosa: che cosa vicino al Pantheon, sì, e ho chiesto già di muoversi, di recuperare il numero di telefono così possiamo collegarci. È stato avvistato un camper di Forza Italia con i faccioni di Silvio e Marina e la scritta "Il sogno continua". Vabbè, ma sarà un sostenitore, non saranno amici ufficiali, eh. No, beh, cioè, a parte che c'era anche un articolo oggi sul Corriere.it. Però sto facendo recuperando. Siamo con Alfredo da Torre, Partito Democratico, bersaniano, si può dire ancora bersaniano oppure nel PD siete messi al bando? Ma penso di no, penso non siamo messi al bando. Io personalmente sono orgoglioso di aver lavorato e collaborato con Pierluigi. Ma come vi sentite? Come i giapponesi? Come vi sentite? Come i panda all'interno del PD ormai, in questo PD totalmente renzianizzato? Renzi ha vinto, poi è chiaro c'è una corsa a salire sul carro del vincitore. Ah, questo poi non c'è dubbio. La politica consuma tutto anche abbastanza in per cui diamo presa. Tempo al tempo, no? Sì, penso convenga. Adesso bisogna con le proprie idee, senza opportunismi, dare una mano al segretario, ma anche rimanere coerenti. Però ricordiamo, da Torre, ricordiamo che Bersani a un certo punto, molti bersaniani volevano fare accordo con i 5 Stelle, che oggi definite degli animali, delle bestie, degli insultatori, eccetera, eccetera. Questo bisogna sempre ricordare. I 5 Stelle non si stanno comportando bene, innanzitutto, secondo me, rispetto a chi li ha votati e si aspettava... Però l'accordo ce lo volevate fare voi a un certo punto. Bersani non è che voleva portarli al governo. Bersani ha detto, io vi propongo dei punti, consentite al governo di partire e poi vediamo se questi partiti... Beh, però c'era un grande movimento per no, anche di pressione dall'esterno per dire 5 Stelle Scusa, è stato secondo me il primo momento in cui c'è stata poi una delusione nei confronti di 5 Stelle. Scusi, da Torre, ma l'errore maggiore di Renzi secondo lei è stato quello di... Ma lei ci parlerebbe mai al telefono con Verdini? Il problema non è parlare con Verdini. Cioè, stringerebbe mai un accordo con Verdini? Oppure se lo farebbe controfirmare dal notaio? Sì, magari sì. Converrebbe farlo controfirmare dal notaio. Già nella scorsa legislatura si era provata a fare la legge elettorale con Verdini. Erano state fatte anche varie bozze d'accordo. Poi puntualmente Berlusconi... Cioè, lei ancora non si c'è l'inchiostro simpatico, diciamo. Quello che scrivi poi sparisce. Ti ricordi? L'inchiostro simpatico. Ma è successo varie volte. C'è una lunga esperienza di... Per cui ancora non si fida lei di quello che può accadere, per esempio, alla Camera all'ultimo momento, nelle votazioni, cioè di quello che accadrà. No, io totalmente non mi fido. No. Non si fida. Adesso c'è un dato che, così come adesso, almeno la legge elettorale è abbastanza favorevole a Berlusconi. Quindi abbastanza favorevole, eh? Sì. Ah, per lei dunque l'Italicum favorisce Berlusconi? Ma sì, se pensa che 2-3 mesi fa Berlusconi era in un angolo, il centrodestra si era spaccato, era fuori dal gioco politico. Dunque Renzi sta favorendo Berlusconi? Io questo l'ho criticato perché secondo me è giusto parlare con tutti sulla legge elettorale, anche con Forza Italia, ma sarebbe stato meglio chiudere un accordo nella maggioranza e poi dialogare. E questo lei l'ha già detto, ma di fatto, visti anche i sondaggi, visto anche questo avvicinamento di Casini, per esempio, no? Cioè alla fine l'effetto è stato quello di favorire il centrodestra per adesso dell'Italicum? Allo Stato, secondo me, così come il testo base, favorisce di più Forza Italia, perché Forza Italia ha più capacità coalizionale, poi si è ritagliata anche delle norme che l'aiutano, tipo il Salvalega. Per cui Forza Italia, che è una vergogna secondo lei? Secondo me è una cosa che non sta in piedi. Pensi che allo Stato la Lega potrebbe entrare in Parlamento prendendo l'8-9% sì, in tre regioni, sì, poi sì, magari una forza politica che prende il 7,9% perché non è coalizzata, non è coalizzata, rimane fuori, rimane cioè, fuori. È una roba quindi, che non è solo contro la Costituzione, è contro un minimo di ragionevolezza umana. No, ma quindi, questo sono dottore, d'accordo con lei. Renzi è un po' un apprendista stregone, insomma, in queste cose, sembra un po'... Ha provato a dinamizzare il quadro, secondo me lo ha fatto dando allo Stato troppo spazio a Berlusconi. Adesso c'è tempo di correggere, però. Ma lei che cosa vuole correggere? Al di là di questo Salvalega, che cioè col Salvalega lei non la vota? No, non la voto, io faccio una molti di voi non la votate. Metti che metti che il patto con Verdini e tra Berlusconi, tra Renzi e Verdini sia quello di lasciare questo Salvalega. Voi, lei e i suoi amici, diciamo, le persone più vicine. Ma noi non è che siamo una setta, noi siamo in un partito. Vabbè, lo so che non è una setta, mica Grillo. Siamo nel partito per far cambiare. Ma lei, se resta questa cosa del Salvalega, non la vota? Sono vari aspetti che vanno corretti. Adesso cosa votiamo? Vediamo la settimana prossima, dopo che avremo fatto tutte le riunioni e capito che... Liste bloccate e Salvalega, la votano? Liste bloccate come si fa? È chiaro che va cambiato. Tra l'altro abbiamo offerto diverse soluzioni. Abbiamo detto o collegio uninominale, o principi obbligatori, o preferenze. Una di queste tre va presa su. No? Così cioè com'è... le liste bloccate così come sono, queste mini liste da 5-6 non possono rimanere? Secondo me no, ma non conviene nemmeno a Renzi, cioè Renzi si è presentato come quello che cambiava, andava avanti, torniamo al peggior difetto del Porcellum, secondo me non regge questa cosa qui. Comunque allo Stato... Renzi, che poi è molto sensibile anche, capace di cogliere gli umori dell'opinione pubblica. Ma scusi, allora non si rende conto di favorire Berlusconi? Non ho capito questa cosa, cioè lei dice favorisce Berlusconi allo Stato attuale, per esempio Casini è andato con Berlusconi, adesso se uno somma un po' di cose non c'è dubbio che Berlusconi... Ma Renzi rischia di, se non correggiamo un po' la cosa, di fare lo stesso errore che fece Veltroni nel 2008, in cui si è pensato che il PD da solo, con la forza carismatica del leader, potesse rovesciare equilibri politici. Poi il 2008 abbiamo avuto una sconfitta elettorale di dimensioni molto molto ampie. Poi in Italia storicamente quando il centro si allea con la destra la sinistra perde, è stato così nel 94, è stato così. Per cui si sta facendo scappare il centro, dice lei? Secondo me bisogna stare molto attenti a quello, sì. Cioè l'Italicum così come è fatto adesso eccetera alla fine spinge il centro verso la destra, spinge un pezzo di moderati centrodestra di nuovo nelle braccia di Berlusconi. Ecco, allo Stato il rischio c'è, sì. Va bene, grazie dottore, a presto, grazie, saluti, grazie, arrivederci. Ma che è piacere sentirvi, ma voi siete dei fenomeni. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Allora, popolo della zanzara, mi scrive, se non è un fake, Bruno Vespa su Twitter dicendo: ma davvero Crepè si è lamentato del compenso di Porta a Porta? Allora, facciamo risentire esattamente quello che ha detto a un certo punto Crepè. Giallo Crepè. La mia valutazione è molto semplice. No, non si è lamentato. La mia valutazione è che, insomma, ha detto che è poco rispetto a quello che prende una starletta, rispetto ad altre cose, è evidente. È evidente, poi ha detto no, ma non me ne frega niente, va bene così. Sentiamo, Io sono il tuttorero. Chiude la Porta a Porta, io ci vado 3-4 volte l'anno. Quanto la pagano a Porta a Porta? Poco? 7,50 lorde. 7,50 lorde? Lorde? Sì, sì. Sì, anzi, ce l'hanno anche abbassato. Pure? Erano 800, sì, sì. Sa che alla Rai fanno cioè la spending review, no? Poi pagano qualcuno 4 milioni. E poi però dei professionisti dicono: lei ha anche pagato al massimo, così mi dicono, non lo so, io non è che vado a vedere se una starlet prende qualcosa di più, immagino di sì. Questa è la storia, eh. Io come la chiamate voi, scusate, Come la chiami tu, Parenzo? Sveglia, come la chiami? No, sta roba? La chiamo semplicemente annotazione tecnica. Cioè, lui dice rispetto a una. Perché non è che si è lamentato, non è che ha bisogno. Parliamoci chiaro, non no, è che. Ha detto, Crepè... infatti, no, infatti ma no, ha detto. Parliamoci chiaro, non è che. Non è con quello che campo. Esatto, non è ha con bisogno. Quello è uno psichiatra, un professionista affermato. Faceva notare il la differenza Rai che c'è. La Rai ha ristretto i compensi. E questo è giusto che sia anche così, no? Che c'è una spending review, siccome sono soldi pubblici. Però dice da una parte ci sono io e dall'altra una starlet qualunque. Quella che cosa è, una lamentela o no? No, è far notare il peso diverso delle cose. Vabbè, no, comunque, ma non è che Salvo diceva... da Catania, dai, Salvo. Mi sembra. Salvo? Sì, pronto? Dimmi, dai. Sì, guarda, io volevo difendere Grillo, perché io non capisco, poi l'attaccate e dite che sta facendo una barbarie. Ma se lui ha a fatto... A parte che io non ho detto campagna... affatto una cosa del genere. Sì, ma se lui ha fatto una campagna elettorale su questi toni, su questo modo di fare, è giusto che poi nel Parlamento si comportano in questo modo. Ma guarda, io sono d'accordo mentre con lei, Salvo. Barbarie, cioè... È barbarie il fatto che ci sia un Letta primo ministro che è il nipote della mente di Berlusconi. Vabbè, questo che c'entra? È una barbarie. Ma che c'entra la barbarie? Non ho capito. Voi l'avete detto l'altra sera, barbarie, barbarie. Voi l'avete detto, sono ma parole scusi vostre. Un attimo, perché dovrebbe essere una barbarie, addirittura una barbarie il fatto che ci sia Letta nipote di Gianni, presidente del Consiglio? Io sto dicendo barbarie questo perché voi dite che è barbarie quando... Ma io non ho mai Grillini detto una barbarie, che, no, io sto alle parole, così, che parlare di colpo di Stato... Attaccavano in... Perché colpo di Stato? È un modo di dire questo qua. Caspita, poi perché hanno detto quelle cose sulle signore del PD, e vabbè, quelle sono cose che magari scappano, che poi io non capisco, forse è l'unica cosa che sanno fare bene, comunque... Cioè, non ho capito, scusi... Salvo, no, non ho capito, come scappano? No, dico, cosa scappano? No, che cosa ha detto? Quelle battute sulle signore del PD. Sì. Sono ma chi è che fa sto rumore? Parenzo, che cavolo ti maneggi là mi che fai rumore in diretta? E mandando, non rompere i coglioni, abbassa sto volume. Mi stanno mandando cose sulla trasmissione. E chi se ne frega, abbassa il volume, che fai? In diretta si sente tin, e che cavolo? Aggiornamenti ci sono. Ma chi se ne frega, Salvo, dai. Ti dispiacerebbe andare ecco, a fare appunto, è due ore che sento sto rumore in diretta, Salvo, dai. Arrivano aggiornamenti. Ma metti letto ogni volume. Le persone che stanno morendo di fame, che perdono il lavoro, quindi i grillini sono la voce di questo popolo. Ah, i grillini secondo sono... Secondo me, Quindi è giusto che si comportino in questo Giovanni modo. Da Parma, Giovanni da Parma. Buonasera, volevo anch'io concordare con quello che ha appena parlato, comunque almeno c'è un'opposizione. E poi vi volevo chiedere una cosa, avete letto l'articolo di Travaglio oggi? Sì, come no, tutti gli insulti, ma a me non è vero, a me piace tantissimo, tutti gli insulti che hanno preso i grillini in questo sì, tempo. Cioè, non c'è bellissima. Nessun commento, quindi Travaglio non c'entra niente, ma... C'è veramente una marea di roba molto peggiore di quella che... Ma assolutamente, Giovanni, ma infatti io non mi sono stupito per niente, tranne quando uno scrive che vuole stuprare il Presidente della Camera. No, ecco, la singola persona ma... che non è un grillino, non ha necessariamente la tessera di Grillo e forse non è nemmeno elettore di Grillo, quello è un coglione. Dopodiché non esiste né emergenza stupro, né emergenza sicurezza per Aboldrini, né emergenza eversione per quello che riguarda i 5 Stelle. Su però quello... hanno detto in precedenza delle cose che erano... veramente da panico. Comunque almeno abbiamo un'opposizione, Dio santo. E ragazzi, voglio dirvi una cosa, questa trasmissione qua è l'unica in cui si può parlare chiaro, in cui si può dire tutto, in cui ci sono delle teste libere, senza pregiudizi, senza tessere di partito, senza padroni, traffico. Quando mai Parenzo non dice stupidaggine? La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Allora, siamo a Rovigo con Giuseppe. Buonasera, prego. Sì, ciao. Allora? Io volevo parlare a proposito dei camionisti che si fermano lì nelle piazzole, che dicono che noi li fermiamo lì nelle piazzole. Le grandi inchieste della zanzara che continuano. Non ci siamo fermati su questo fronte, cari amici. Fra poco manderemo Parenzo su una camion in giro per carità. Magari le piace Parenzo. Parenzo è stupendo, Parenzo. Vabbè, però ne voglio parlare dopo di Parenzo. No, parliamone ma subito. Non ci siamo altro credo che... mai incontrati. Io vi devo chiedere questo, per favore. Stai zitto un attimo. Fatemi sapere quando Parenzo farà questo giro, perché io lo vorrei incontrare. Lo devo toccare per forza, Parenzo. Ma metta le mani a posto. Lo devo toccare per forza. Ma metta le mani a posto. Ma come le mani a posto, Parenzo? Tu con questa voce... Metta le mani sul vento, ho bisogno di toccarti. Amore, sto a casa. Ciao, ciao mamma, ti devo lasciare. Ciao, ciao, ciao. Ma chi è? Oh, chi è? Ma come questo ti devo lasciare? Questo è uscito da un ospedale psichiatrico. Però. No, ma richiamatelo subito. Altro che sono mamma, ti devo lasciare. Che è? Questo era un no, Giancarlo da Milano. No, no, che non poteva. Questo qua di, è un gay che non, è, non ha fatto ancora coming out a casa con la mamma che era, a parte che mi sembrava la voce di un uomo da dietro. Comunque la cosa fondamentale è che ti voleva, Giuseppe. Ma Davide. Sai, questo non è l'unico. Ma perché hai fatto il taormina prima reagendo in quel modo, Giancarlo? Non è l'unico. Ma perché ho detto che io non sono interessato. Ma che c'entra? Ma hai fatto lo schifato? Sei no, so, schifato sì, io sì, mai. Giancarlo, anzi, dai, anzi, Giancarlo. Richiamatemi Giuseppe per i diritti. Di... Ma che c'entra, Giancarlo, dai. Giancarlo! Antonio da Napoli. Buonasera. Dimmi. Ciao Giuseppe, senti, io ce l'ho a morte con te. E ti spiego subito, perché tu l'altra volta volevo già intervenire. Quando hai parlato con il questore D'Ambrosio, tu senza sapere, senza vedere, senza sentire, gli hai dato ragione. No, io non gli ho dato ragione. Sì, io... sì, sì, allora io... No. Antonio, non mi rompere i coglioni, dai, non gli ho dato... Non è vero, perché tu hai detto che questo non avrebbe mai potuto dire quelle cose, fare quelle cose, invece no, l'aveva fatto. Ho detto, lo allora conosco, io... lo conosco, e non io mi sembra che... in grado di fare cose di questo tipo. Detto questo, le immagini... Fermati. Stai tranquillo, no, fermo, sentito, fermo, le immagini ancora non c'erano, e subito dopo aver visto le immagini, il giorno dopo, ho detto chiaramente che aveva sbagliato e che è stata una gomitata. Dunque non ho niente da rimproverarmi su questa cosa qua, no, niente. Giuseppe, senti, beh, io vi ascolto tutte le sere, sono l'unico che ascolta anche le perché penso un po' come sono affezionato. Vabbè, allora? Allora, tu lui l'ha chiamato la stessa sera e ha detto che non era vero e tu mi hai creduto. Perciò, allora io non sono un grillino, sono a morte. Non ho creduto a nessuno, mi stava raccontando la sua versione, non ho creduto. Tu mi hai creduto. Vabbè, senta... Antonio, mettila come vuoi, dai, non me ne frega niente, dai, forza, sei fissato su questo e vabbè, benissimo, ci ho creduto. Allora? Allora, stava a prova, allora aveva ragione. Poi un'altra cosa, poi con Borghezio, là, dovete smettere di farlo intervenire, perché non è possibile sentire quelle puttanate da una persona che non si sente italiano. Non è italiano, è un patan. Se ci togliessero dai coglioni, loro, la Lega e tutti quelli, perché non se ne vanno dal Parlamento ladrone? Perché? Noi li dobbiamo pagare noi, o no? Giuseppe, è tornato, Rovigo. Allora... Pronto? Giuseppe? Pronto? Ma dove sei finito, Giuseppe? Pronto? Non posso ora, non posso. Perché ora? Non puoi? Devi finire su Parenzo. No, non posso. No, ma come no? Chiamatemi domani, ora ma, non posso. Ma che quanto ti piace Parenzo? Io con te non ci parlo perché hai denti gialli, mi fai schifo. Vabbè, d'accordo. Ti piace Parenzo invece? Quanto ti piace Parenzo? Non posso. Sì, ciao mamma, ciao. Ma chi mamma? Questo vabbè, è impazzito. Non spostato. È pazzo. Mario da Milano, spostato. Dai, Mario. Tu lo richiami pure, non spostato. Ciao Pino. Pino che quale Pino? Giuseppino, Pino, ormai ti trattano così, ma perché ti trattano così, Giuseppino? Senti, saluto anche l'amico lì, Parenzo. Ciao. Senti, caro, ciao. Pino, Giuseppe, io ho tanti amici, Giuseppe, li chiamo Pino, vabbè. Comunque, Giuseppe, ascolta, io riallacciandomi al discorso di questa povera Boldrini che gli fischieranno pure le orecchie per parlare tutti di lei, siccome tu sei una voce un po' fuori dal coro, perché mi pare che in linea di massima nessuno ci andrebbe con questa poveretta. Con chi? Però a parte te mi sembra, perché tu hai detto a te piacciono le donne un po' in età, mi sembra che più di una volta hai fatto notare che ti piaceva. Ma che c'entra questo? Le donne mature, diciamo. Ho capito, ma la cancellieri non è che è matura, è di più che matura, diciamo, no? Devi anticipare, volevo sapere, no, vabbè, mi sembra matura, cioè. Però di la verità, dai, la cancellieri anche non è male comunque. Ma questo ha telefonato perché... per questo? Io non lo so perché ha telefonato. Mario, perché hai chiamato? Scusami. E volevo sapere se la cancelliere ti ispirava qualcosa di. Vabbè, ma vai al diavolo. Faceva venire qualche pensiero strano. No, Giulio, provincia di Latina. Ciao, buonasera, Cruciani. Dimmi. Volevo litigare un po' con Parenzo. Volevo dire che lui usa sempre due misure quando si parla di la Boldrini e quelli della sua parte. No, dipende. Va tutto bene, ma io non ho parte, dipende cosa uno dice. Sessismo, attacchi pseudo di stupro, eccetera. Poi quando si tratta di Berlusconi. Vabbè, ma che c'entra Berlusconi? Dipende cosa uno dice. A Dracula, eccetera, eccetera. E quindi, come al solito, non è coerente, insomma, ecco tutto qua. Va bene, Umberto da Milano. Pronto? Dimmi. Buonasera. Ma niente, stiamo diventando proprio ridicoli in tutto il mondo, veramente, guarda. Parenzo c'ha ragione, siamo arrivati all'inverosimile con questa gente. Ma con questa gente chi? La Lega, i grillini. Cioè, ma ti rendi conto chi ci governa a noi? Ma ti rendi conto? Invece di pensare veramente ai problemi degli italiani, stiamo pensando a Boldrini, se la dobbiamo stuprare o no. Ma chi l'ha detto? Beh, questo lo dicono su web dei pazzi scatenati, certamente non lo diciamo noi. Infatti noi siamo governati da pazzi scatenati. Per fortuna quelli che scrivono che bisogna stuprare la Boldrini non governano. No, però un momento, perché qui stai perdendo il filo delle cose. Tutto inizia da quello che ha scritto Grillo sul suo blog. No. Scusa, ma di chi parliamo? Ma tutto è inizio da lì. Questo qui è un capo politico. Cosa fareste con la Boldrini? Ma scusa, ma non si può scherzare su tutto. Lui ha scritto, lui è un capo politico. Ma è una violenza, secondo te? Ma non secondo me, ma non è quello il discorso. Dà la stura a tutta questa barbarie. Sta manovrando le marionette là dentro. E fanno quello che vogliono. Vabbè, fammi sentire Califa da Ravenna, che non ho capito niente, di Umberto che se la piglia con tutte. Cioè, Califa o Califà, ma chi è? Califa. Califa si chiama. Califa, dimmi. Vabbè. Sì. No, perché l'inchiesta che dice tra i camionisti e praticamente questi qui che vanno in macchina, non so se chiamarli Pinocchi o Frosci, comunque, io ti dico una cosa. Dimmi. Io proprio ieri, andando verso Venezia, uno mi si è affiancato con la macchina, sì, abbassando i pantaloni, ma quello rischiava anche di causare un incidente. Ce ne sono in autostrada, però una cosa te la devo dire, Cruciani, è dimmi, che se i camionisti non ci vanno con loro, questi qui non sarebbero andati sull'autostrada. Il punto è tutto lì, perché ognuno nega, ma la notte li vedi. A me non mi danno fastidio, ma basta che non vengono da me. Perché io sono nero, vengo dal Senegal. Quando mi vedono comincio a girarmi intorno sul carro, mi danno fastidio che io devo fare una pausa di 45 minuti. Perché ti girano intorno? Perché ti girano intorno, Califa? Mi girano intorno perché loro quando non vedono un nero, sai, il famoso detto che ce l'abbiamo lunghi, duri e grossi. E non è vero, noi siamo tutti uguali. C'è chi ce l'ha lungo, grosso, è uguale. Io non riesco a capire questo che telefono che, per dire. A me danno fastidio certe volte, perché mi preparo la pasta per mangiare e sono lì davanti. E non posso dirgli niente perché qualunque cosa dici, ti dicono sei razzista, ma io non sono razzista. Il mitico Big Black Bamboo, il mitico Big Black Bamboo. Tu non fai parte però di quella categoria, mi sembra di capire, Califa, no? Giusto? Di quale? Vabbè, la categoria di quelli che dicevi prima, insomma, no? Di quelli dei miei... Carità, a me piacciono le donne e basta. No, non fai parte della categoria dei superdotati neri, insomma, no? Sì, ti faccio parte, però cosa vuol dire? Ah, fai parte pure tu. Le donne, non gli uomini. Ma anche te, che ti frega di approfondire sta cosa? Non capisco. Ma è un approfondimento, le inchieste della Zanzara. No, però Califa, senegalese da Ravenna, camionista se non sbaglio. Sì, camionista. Dice che in realtà viene affiancato, viene spesso circondato. Ma proprio ieri, ti giuro, non è successo ieri. Big Black, che è successo? Bambù, che è successo? Ma a me è dato fastidio perché uno che si mette in mezzo all'autostrada, poi abbassa i pantaloni, si prende il suo coso in mano, quello non ha senso. Se tu prendi l'autostrada verso Venezia, appena passi Ferraro Sud, Ferraro Nord, mandaci Parenzo, perché visto che lo vuoi mandare non c'è dubbio, guarda, ma non c'è dubbio. Non ho intenzione di fare questa importante inchiesta. Quando guardi, ci va la prendono, ci saranno 20 macchine e 10 camion, nessun camionista ci dorme perché ti bussano la notte. E poi c'era una che parlava, che magari è arrivata la sua mamma e ha smesso. È un peccato, quello doveva parlare, richiamalo. Ti saluto, Cruciani. Ciao, Big. Ciao Big Bambù, ciao. Parenzo, è stupendo, Parenzo. Io vi devo chiedere questo, per favore, fatemi sapere quando Parenzo farà questo giro, perché io lo vorrei incontrare, lo devo toccare per forza, Parenzo. Il mio nuovo idolo si chiama Giuseppe da Rovigo, innamorato di Parenzo. Parenzo, tu con questa voce, io ho bisogno di toccarti, Amore, sto a casa. Ciao mamma, ti devo lasciare, ciao. Ma sembra un uomo la voce dietro, tra l'altro, di questo Giuseppe da Rovigo. Parenzo, io ti ci manderei da questo Giuseppe, questo che dici? Sembra. Eh? Questo si potrebbe anche ragionarci su per capire, tu dici chi è esattamente questo signore? Il mondo tu di pensi Giuseppe che sia di interesse questo signor Giuseppe? Allora, cerchiamo di risolvere una volta per tutte. Per te non c'è niente di interesse che non siano le cose serie, i discorsi filosofici, no, ma questa però è la zanzara, è un po' monomani- sì, ma è un po' è monomaniacale. Zanzara, aspetta che c'è. È un po' da crepesta da analizzare il tuo amore per queste vicende dei camionisti e della sessualità nelle autostrade, che è una cosa che ti sta molto a cuore, vedo. Allora, facciamo risentire monomaniacale. No, ma finisci. Vagamente. Facciamo risentire che cosa? Cari amici, popolo che siete all'ascolto, facciamo risentire la frase di Crepè sul suo compenso. Perché c'è un elemento in più. Lui a un certo punto dice, anche se la frase è mozzata, ma chiarissima, per quello che mi danno. E amico mio. Chiude la porta forte, io ci vado 3-4 volte l'anno, le assicuro che per quello che mi dà, ci vado anche in motorino per non far pagare la Rai, pensi un po'. Quanto la pagano a Porta a Porta? Poco? 7,50 lorde. 7,50 lorde? Lorde? Sì, sì. Sì, anzi ce l'hanno anche abbassato. Pure? Erano 800, sì, sì. Sa che alla Rai fanno cioè la spending review, no? Poi pagano qualcuno 4 milioni. E poi però dei professionisti dicono lei ha anche pagato al massimo, così mi dicono, non lo so, io non è che vado a vedere se una starlet prende qualcosa di più, immagino di sì. Ragazzi, se non è una lamentela questo, per quello che mi danno, anche se la frase è molto chiara, pagano qualcuno 4 milioni, 750 euro a puntata, ci vado 3-4 volte l'anno, anche se la chiudono non mi cambia niente. Ragazzi, quello sì, lo diceva rispetto alla sua professione, cioè che vive ma lo sì, stesso. Ma ho capito, io infatti non lo voglio attaccare. Mi hanno chiesto spiegazioni dall'alto dei ma nostri cieli. Ma chi ti cieli. Ha chiesto spiegazioni? Vespa chi? anche lo stesso Vespa mi ha chiesto giustamente spiegazioni. Io rimando in onda, adesso metterò online queste frasi di Crepè, ma non c'è niente di strano, non c'è niente di male. Ce l'abbiamo Big Bambù di nuovo? Big Bambù lo voglio risentire, Califà, camionista che ci chiamava prima, che ci ha dato un quadro abbastanza chiaro. Ma vedi che siamo monomaniacali allora proprio. Luigi, provincia di Bari, aspetta che proprio chiamiamo un grande ospite, Allora Luigi, ragazzi, forza, Luigi, provincia di Bari. Ciao, buongiorno. Giovane, invece di far parlare tutta questa gente, Borghezio, buon anno, lo stesso Berlusconi, che esteticamente anche tu fate un pochettino schifo, sì, fate schifo, parlare me che sono bello, alto, biondo e c'ho un sacco di cose da dire. E parla allora. A parte che come sai non ti si vede alla radio, cioè, tu puoi essere anche bello, biondo, eccetera, ma alla radio non ti si vede, come dire, no? Allora, una volta che allora, parla? Sì, sto parlando. Invece di stare a dire un sacco di cretinate, vogliamo parlare di fatti seri? Sì, perché parla di fatti seri, meno male che sei arrivato persona, tu. Sono giovane, sì, sono giovane, una persona sì. onesta che fa il suo lavoro e viene pugherato dallo Stato in continuazione. Il discorso è che io ho lavorato per 40 anni e mi hanno allontanato la pensione. Per quale motivo lo Stato mi deve rubare? Io come devo reagire? Questa è la violenza che si fa, è chiaro? Ma non ho capito in che cosa ti derubano, scusa. Mi derubano? Allora, se io ho fatto un patto con lo Stato che devo lavorare 35 anni e andare in pensione, sì. lo Stato mi ha allungato il periodo di sua iniziativa, sì. vuol dire che mi ha rubato 5 anni di vita. Ma non ti ha rubato, hanno deciso di allungare allora, l'età pensionabile. Tu non capisci niente. Sì, giovane, dai, forza. Allora, se non capisci niente, giovane, fai un'altra trasmissione. Sì. Ho detto che praticamente se tu fai un patto con una persona qualsiasi e dici che dobbiamo stabilire. Ho capito, amico mio, ma a un certo punto si può anche decidere di allungare l'età pensionabile, no? Ti hanno allungato la pensione, staccia, no? E lavora di più e non rompere i coglioni, dai. Giovane. Beh, ragione, scusa. Comunque sei un po' bruttarello, anzi, forse sai. Capito? E non rompere i tuoi coglioni, perché sei anche maleducato, stupido. Ma io lo dicevo con affetto. Affetto, questo lo dicevo con Luigi, te lo dicevo con affetto. Ah, ma anche io te lo dico con affetto. Te lo dico con affetto. Se vieni ti posso pure cambiare i connotati, perché sono un artista, ti faccio diventare bello. Ma no, ma non c'è bisogno, guarda, io mi sto bene così, cioè mi sto bene così, cioè poi non me ne frega niente di quelli che mi danno brutto, bello, eccetera. Mi sto bene così, tranquillo. Vabbè. La bruttezza è anche la dimostrazione. Ma sarai tu brutto, ma sarai tu brutto. Io sai quante cose ho e non pago nessuno. Quindi a un certo punto che tu non paghi, che tu non paghi, che tu non paghi, caro Luigi, c'è da discutere, c'è da vedere, c'è da vedere. Io sono sicuro che qualcuno la paghi anche profumatamente, e anche profumatamente. Mi sa che tu non sei tanto normale, non hai capito ancora come si fa per conquistare le donne. E come si fa? Quindi, dammi qualche lezione, dai, tesoro, dammi qualche lezione, tesoro. Ci vuole la cultura, ci vuole l'eleganza. L'eleganza, perché tu ci sei... Ci vuole la serietà. Giovane, tu sei elegante? Dimmi, caro. Tu sei elegante? Io, elegantissimo. Ma sei pieno di donne? Insomma, non mi posso lamentare. Non ti puoi lamentare, non ti puoi lamentare. Vabbè, ma richiamami. Beh, però non mi fare sentire troppo la tua mancanza, Luigi. Sì, ti richiamerò e ti darò qualche numero. Di che? Qualche numero di che? Di qualche donna. Ah, sì? E dammelo, va, dammelo. Ciao, caro, ciao. Ce l'ho sul telefonino, poi te le darò. Le prendo, me le appunto e te le do. Ciao, e senza pagare. Dici. Pensa a Berlusconi, che c'ha un sacco di soldi, però esteticamente lasciamo stare, non è molto elegante. Ma perché tu che sei adesso? Con chi sto parlando? Vabbè. Con una specie di Richard Gere de Bari? Non lo so. No, di più. Ciao, caro. Amici miei, ritorna la zanzara dopo gli insulti subiti da quelli del 5 Stelle, il grandissimo professor Filippo D'Averio. Ciao Filippo, come stai? Come state voi? Bene. Siamo qui a combattere. Beh, io voglio capire da te cosa è accaduto in questi giorni, innanzitutto. Quanti insulti hai ricevuto? Beh, ne ho avuti 400 sulla di quelle robe lì sul loro blog. E alcune telefonate minatorie a mia moglie, tipo devi morire. No. Sì, ma però hanno il vantaggio, devo dire la verità, che fanno vivere più a lungo. Cioè? Ogni volta che uno ti dice devi morire, hai diritto a 3 settimane di vita in più. Allunga la vita. Tu la prendi così. Cioè porta un bene incredibile, guarda, porta un bene incredibile. Ma come fai a dire che le minacce telefoniche sono legate a quello che giustamente forza, hai detto sui grillini? Prima non arrivavano. Cioè te l'avevo detto per quello che... Di solito quando mi occupo di storia dell'arte non è che mi arrivano le minacce perché ho parlato male di un attore medievale. Ecco, sì. È pericoloso parlare male di Grillini. Ma sì, ma certo, voglio dire, non è che si occupa proprio di politica attiva, davvero. Ogni tanto quando lo invitano dice la sua, ma non è che di solito, no? Mischia, fa parte della mischia politica. Non è che faccio parte, non sono né nella casta, né nell'anticasta, né nella sottocasta, e neanche nella paracasta. Però a non avere mica paura, no? No, figurati, a me. Cioè, poi uno che ha superato i 60 anni non ha mica più paura, perché può dire, come si dice una volta, sei nei comizi, io dico pare vino al vino. No, non è così. Cioè non è che fai come la Boldrini che ti precipita alle trasmissioni per dire oddio, mi insultano, mi dicono, mi vogliono stuprare, ci sono dei potenziali stupratori. Non è che dici che ci sono dei potenziali assassini, no? No, beh, spero che siano potenzialmente dei... un pericolo trasversale, sì, nel senso che loro a mio parere non sono pericolosi, perché cancabaia non morde, classico. Però cancabaia può suscitare un volpino che da qualche parte invece ti morde la caviglia, e quello ti fa male, devi cambiare scarpe. Cioè, che cosa puoi temere? Che ci sia qualcuno che ne so, che esci da casa e ti dà una ripassata? Che cosa? Ma no, ma poi se ne frega. Poi guarda che non sono mica fragile, cioè ti sai difendere, dici? Sì, no, adesso non è che faccio dei corsi di box. Ma non me ne importa nulla, ma credo che in questo momento assumere un po' una posizione sia molto importante. È stato fantastico. Quante persone invece mi hanno mandato dei messaggi di solidarietà? Quello rassicura molto di più, perché ti dà l'impressione di non essere un cane disperato e solto, e neanche di essere un vecchio matto che dice adesso se la prende con queste brave ragazze. Vabbè, hai paragonato però Casaleggio a Goebbels, diciamo la verità. Beh, lì non ci vuole molto. Se uno va a guardare Gaia, che se uno clicca e va a vedere Gaia gli vengono i brividi, cioè il governo unico governo mondiale, l'eliminazione della classe politica, sono i migliori che comandano sul popolo trasversale che riceve il messaggio, è esattamente il sogno che aveva Goebbels quando si metteva davanti alla radio della Germania nazista. Cioè Goebbels, tu dici addirittura più dignità di Casaleggio, perché almeno quello no, adesso sarebbe assurdo. E poi quelli furono dei criminali organizzati, questi hanno, l'unica cosa che mi rassicura è che sono una parodia. Sono una parodia. Non hanno mai lo stesso effetto del. Appunto, dico. Beh, però sono tanti in Parlamento, questi. Ma sono tanti per un errore italiano, guarda, ti devo dire la verità. Beh, oddio, c'è 25%, 24%. No, esatto, se guardi l'Europa, in Germania i Verdi fanno il 21%, in Francia il 19% con Convendit. E hanno un indirizzo politico vero di critica alle politiche nazionali e di immaginazione di un mondo diverso. Questo è una parte dell'elettorato 5 Stelle, cioè io non ce l'ho mica solo con l'elettore 5 Stelle, che è una brava persona che ne ha un po' piene le scatole della costruzione politica italiana attuale. Sono i due drittoni che li fregano. Ah, i drittoni, dici te. Certo, quelli lì che... Ma sono due dritti, cioè sono due paraculi, no, secondo te? Due drittoni formidabili, altro che rottamazione dei vecchietti da parte di Renzi. Cioè quelli sono due profittatori che alla fine fanno business. Sono due vecchioni che non hanno mai pagato il dazio, che si sono fatti tutti i loro comodi fine di mattina e hanno scoperto negli ultimi 10 anni il fascino non affatto discreto della politica. E ci stanno sguazzando dentro e hanno... siccome questa capacità forte di urlare, di comunicare in un mondo dove la comunicazione è un po' come in un caleidoscopio, cioè tu lanci un grido, fa più che altro fa del rimbombo. Però Filippo, scusa, secondo te ci guadagnano pure una roba per cui ci guadagnano pure dei soldi, cioè fatta pure per no, non fatturare. Credo, perché sta già bene ormai, sai. No, non è lì la questione, cioè, basta che non paghino i conti, va bene lo stesso. Ma metti il caso in cui Grillo e Casaleggio, come dicono, ottengono il 51%, no? Cioè, metti che questo è il loro obiettivo, dicono, non ci vogliamo alleare con nessuno, vogliamo prendere il 51% e governare l'Italia. Ecco, in quel caso lì l'Italia cosa diventa? La prima cosa che dovete fare voi due è andare in Francia e in Germania a fare una trasmissione che si chiama il Boustic e non più la Zanzara. Cioè, perché dici che chiudano sicuro. Sì. Voi vi va male, voi finite male. Io anche, cioè tutta una serie di tu al confino. Io al confino immediatamente. Per fortuna ho ancora dei parenti fuori, posso andare a trovare i parenti. Ma tu andresti via dall'Italia? Per esempio, con Grillo e Casaleggio al comando della baracca? No, non andresti via. Io vado pazzo per l'Italia. Io sono venuto in Italia a 18 anni da francese e sono pazzo per l'Italia, adoro. Per cui l'Italia. Anche con Grillo e Casaleggio al comando del timone. Sarebbe un gran circo, però, Filippo, no? Non c'è niente di più serio che per un signore che ormai è la mia età di continuare a... se no rimbambisce. E poi il paese invece in che condizioni sarebbe? In tre mesi di governo Grillo Casaleggio? Si dista di sé definitivamente. Ah, si dista? Perché non hanno nessuna idea del governo. Il governo è la mediazione tra le istanze. Non è l'applicazione di un'istanza sola per diventare padroni del vapore. Sì. Andrebbero in vacca totalmente, perché noi campiamo perché siamo in Europa, non perché andiamo contro l'Europa. Comunque andrebbe tutto in vacca. Andrebbe tutto in vacca. Immaginate cosa succederebbe se tornassimo allo zecchino genovese di Grillo invece della moneta unica. La moneta unica genovese. È pesante. Però vi ricordate quando svalutavamo una volta sì, una volta ancora? Sì, questo è un vecchio discorso. Andava bene per chi esportava, per le aziende non era mica brutto. Per chi doveva pagare la benzina e per chi doveva pagare la lavorava. Scusa, però Filippo, perché non chiedi, tu le cose le sai, sei uno che, insomma, non è che Grillo da un certo punto di vista non ti deve, no? Non devi invidiare nulla a Grillo. Onestamente no, perché non, capelli bianchi. Perché non chiedi a Grillo, che ti ha messo nel suo blog come nemico pubblico, come uno di quelli che poi ti ha definito giornalista? Io mi sarei offeso se fossi stato. Comunque, vabbè. Sì, ma non sono giornalista, mi piacerebbe, sai, perché hanno una pensione fantastica. Però ti sei avevano. Onestamente. Chiedi un confronto, chiedi un confronto diretto a Grillo. Chiedi un confronto su Grillo. Io chiederei, lo farei subito sul ring. E a condizione, a decibel bassi, potremmo chiedere a quello lì della sera a voce bassa, lì, come si chiama? Marzullo. No, perché da Marzullo non ci andrebbe mai. Perché dice sottovoce, facciamo una cosa sottovoce. Comunque faresti un confronto uno contro uno, tu contro Grillo. Esattamente, adoro il ring. Eh beh, adoro il ring perché il confronto delle idee ha un valore. e credo che loro vivano proprio perché... Ma lui dice di essere un monologhista, eh? Dunque è un monologhista, non riesce ma infatti lui non è capace di confrontarsi, lui non per niente usa l'unica tecnica retorica di chi non dialoga, che è l'urlo. Ma dicono che sono squadristi, tu devi, sei d'accordo con questa definizione di squadristi? Sono totalmente d'accordo, perché se calcolo le telefonate che sono arrivate a mia moglie in casa, sì, dicendomi devi crepare, devi morire, sono minacce squadriste. Minacce squadriste. Sono minacce squadriste. Solo con una piccola differenza, che chi faceva lo squadrista usciva dalla prima guerra mondiale e aveva, come si dice, tecnologicamente delle palle d'acciaio, sì, e questi sono degli squadristi con le palle molle. Cioè che alla fine dici... Tecnologica, sì. È uno squadrismo tecnologico che poi alla fine si ammosciano, diciamo. Da codardi. Si ammosciano, cioè non è... Sono codardi anche codardi. Ma sai perché il meccanismo formidabile della rete è che tu puoi mandare un messaggio anche in un italiano sgrammaticato. Sì, sì. Scrivendo le parole con le doppie sbagliate, e tanto passa lo stesso perché butti il sasso e nascondi la mano. Eh beh, è un po' così. I blog, ne ho visti tanti. Non è la prima volta che vengo attaccato dai blog, quindi so come funziona quella roba. È una roba dove uno può, anche da un punto di vista linguistico, butta delle schifezze, cioè, un po' come quando i bambini è un pezzo d'Italia. No, quando i bambini dicono pupu, cioè dicono delle robe tremende. È una roba di questo genere. Va bene. Lì, arriva la sgrammaticatura e l'insulto perché non ha risposta. Ciao Filippo, a presto. Ciao. A voi ragazzi. Piacenza, ciao. Cataliu, gli altri li devo abbandonare. Cataliu, che è un altro nero questo, con un altro big. non sono un nero. Buonasera. Un altro big bambù? No, non sono neanche un bello bambù. Passare da Taverio a Big Bambù. Sono rumeno. Rumeno. No, volevo solo volevo e che solo te chiami dire... Cataliu a rumeno. Beh, poveri, magari. C'è stato coglionà, c'è stai. Sarebbe Catalì. Ah, Catalì. Vabbè, comunque allora? No, sono anche un camionista, volevo solo dire che tra cosiddetti froci che accostano gli autisti in autostrada, ci sono anche dei ladri. Io ho visto una scena che un autista si è fatto salire su. Cioè sono froci e ladri oppure ladri che si spacciano per gay? Ladri che si spacciano per gay. Vabbè, c'è di tutto sulle autostrade italiane. Mamma manderemo mia. Parenzo in avanscoperta. C'è un autista che si è fatto salire sul camion un cosiddetto gay che appena si è tirato giù i pantaloni le ha fregato la borsetta con beh, il portafoglio. Siamo al top. A domani 18:30. È un'Europa che fotte le nostre piccole e medie imprese, che ci ha procurato solo disoccupazione, sofferenze, immigrazione a gogo. Insomma, ne abbiamo i coglioni pieni, detto qui con molta delicatezza. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Parenzo, è stupendo, Parenzo. Radio 24. La passione si sente.